uno ha appoggiato di questo barra che ha messo lui su una di quelle vite che escono in fuori. Bianco per me. Beh, adesso vado, continuo a fare quella roba. Ciao signori, se non rientro ritenetevi tutti super salutati. Ciao. Campo d'accordo. Marcolino. Già, comunque lui deve essere andato sul correggione a fare una cosa del genere, che non va le braccia così lunghe. Aspetta, poi devo fare. Ha preso proprio le scie che ci si è arrampicato. Allora è un pazzo la ragazza. Sì, è sceso la finestra, si è messo sul correggione. Peccato il suo correggione non si è fasciato di fare una bruedoga. Mi sa che adesso mi bevo un po' di caffè, sorbetto di caffè, o sorbetto al limone, uno dei due. Mi chiamano zuccheri con i dito. Lo so, Gianni, faccio un monello un pochettino. Mi fa il monello? Non ho mangiato gelato, non ho mangiato, eh. Cioccolato di quello fondente? No, ho detto adesso io, a forma di caffettino, ho preso il sorbetto di caffè, poi anche il sorbetto di limone. Poi anche il cioccolato fondente, bello a quadretti grossi, ma non è voglia, in gelato, non ne mangiate, ne ho tanti tipi. Niente, voglio prendere un po' di caffè al sorbetto, che è buono. Prenditi, allora io intanto vado in bagno, metterti bevi il sorbetto. Va bene, ci sentiamo tra poco. Scanni, scanni. Chi è che sta chiamando? Già, Gian Maria, sono, dammi il controllo di radio, fai la cortesia. Prova, ero in bagno quando hai chiamato, ti ho sentito ma non potevo rispondere. Prova a vedere. Ok, 1, 2, 3, prova, avanti, dimmi com'è. È chiara Gian Maria, è normale ma è chiara. Ok, grazie Gian. Ma sento un alternato da te, come mai? È il microfono, guarda, adesso non la senti più, il microfono, se lo metto a fianco all'apparecchio fa l'alternato. Fa l'alternato. E vabbè, è una sua problematica di questo microfono qua. Ok, esatto, non ti disturba, vabbè, non sentivo solo quello lì. Vabbè, grazie già, ciao. È la mia la radio, come la senti, Gio Maria? Perfetta, bella, chiara e fortissima. E poi noi siamo vicinissimi. Però chiarissima, perfetta. Ciao Gio Maria. Va bene, va bene. Ciao Tony, buonasera. Capo, buonasera anche a te. Niente, mi sono messo un po' di sorbetto qua, a limone. Mi avevo una gana. Vabbè, già fa bene col limone. Anche a me piace così, uno scucciata di limone, buonissimo. Va bene, tu dai, ci sentiamo, stavo facendo la prova. Ciao! D'accordo, ciao Giovanni, ci sentiamo alle prossime, sarai bene. Andiamo già. Ehi, fa bene la glicemia specialmente. Guarda, bravo, che tu ti mangi le pappe e i pacchetti di tiri. Io sono gulati, senza mangiare gelati e pasta, già sono gulati, domani c'ho la visita. Oi oi oi. Allora, ve ne dico prima la mia figlia, quindi torta e via dicendo. Domenica c'è il compleanno di mia sorella, ce l'ha già fatto a mattina, però fa la festa domenica, torta, ma io non ci vado. E vabbè, io c'ho matrimonio. Io non ci vado perché c'è la mia sorella che non mi parla, quindi io ho già detto non ci vengo. Poi, sabato, torta, più domenica no, torta glicemia, niente da fare, mi va bene una volta sola e boh, io ci vado cauto. Vabbè, bisogna fare così. Ma Natalino che fine ha fatto? Cosa? Natalino è più entrato. Boh, non lo so dove sia, se è andato in questura. Se è troppo vicino si sente alternato già. Ho detto, non lo so se è andato a fare la denuncia, boh. Ci ha copiato, ho solo avvisato che aveva alternato, forse aveva il microfono troppo vicino. Vicino all'apparato. Adesso ce n'è alternato. Per la gara. Lo so che fa così, bisognerebbe mettere qualche cosa per isolarlo, boh, non lo so. Ho provato a fare un cavo di massa che andava dall'apparecchio al microfono, niente da fare. La stessa cosa, sono gustato un'ora a prendere il travaglio per farlo bene. Siccome questi microfoni, le capsule sono assolutamente sensibili e raccolgono tutto, sto pensando, e se li metto una parabola tipo quando i cani tagliano le orecchie, quella parabola così? Sì, le mettiamo collare elisabettiano. E poi posso mettere anche il collare a tipo giù. E comunque l'alternata si sente solo quando mollo, quando parlo non non si sente. Che cosa? La fermata. Gatta, quando non parli si sente. Sì, ma è appena appena, io mi sono ascoltato in cuffia. È appena appena. Vabbè, anch'io sono vicino a me. Lo fanno, mi adesso l'ho riappoggiato vicino all'apparecchio. Lo fanno. E vabbè, ma è una cosa da niente. Come molli e basta. Mollo in fretta, guarda. No, ma se poi non si sente. Tanto è buono. Andrà bene. Vorrei sapere qualche cosa, cavolo. Adesso una cosa non mi preoccupi. Basta chiamare il telefono. Ci suga. Quello ha rischiato per cadere giù dal terzo piano, ma dimmi tu che ti va a fare a chiedere i pitti. E tu l'altro tanto, parlate con Bartoli, sei molto male minore, prendo pure a chiedere. Ok. Ehi. Ah, gente, vi faccio un messaggio. Sto cercando di mettere il microfono. Prova sta fetta a bloccarlo così, così magari si vuole. Bloccarlo così, diciamo bene. Sporge troppo dal mobile e non va bene. Gli ho dato il collo al microfono per un po'. Ascoltami, ma cosa stai usando di apparecchio adesso? Galaxy. Ma con il tuo microfono? Cazzo, questo qui è bello, eh. È bello forte, ma è chiara la radio. Cosa sto usando adesso? E io? Ho messo il microfono attaccato al mobile, sono distante 40 cm, ho allungato il collo. Le microfoni sono conosciute. Adesso sei conosciute. Gatta. Però adesso l'hai regolato bene, non stai, non sei come di solito. No, sono a metà, preciso proprio. Ma è così la radio è chiara come quella di Franco. Calma, se aumento mi... Allora, così ho aumentato. Però innesca un po' vicino, ecco, così sono più distante e no. È poco poco che innesca, vedi. Troppo forte che... Stai fischiando, sei troppo forte. No, lascialo come era prima, era giusto. Così devo lasciarlo. Gianni, 1, 2, 3, prova di modulazione, cambio, passo, passo. Ehi, ehi, già va bene così. Amplifica lo stesso. Ehi, sì, amplifica e la radio è chiara soprattutto, capito? Non è, non è una radio incomprensibile. Mica, ma... L'ho appoggiato così il microfono, si è trovato una fascetta. Sì, ma oppure quando passo qua a fianco e quando compro i ginocchi mi fermo col microfono. Ho appoggiato alla base sotto. Sotto dove ho messo la fascetta, bloccarlo così. E lì no, non mi dà più fastidio. Anziché tenere le mani che pesa. Lo so. Che alla gara. Stavo parlando con mia figlia. Vedi, al piano di sopra ci sta. Ci sta, ma come altezza, ripiani, però non ci sta lui. Perché ho, ho due apparati grossi, capito? Il Galaxy e l'altro. E di su c'è un po' questo microfono. Infatti, sono grandi i microfoni lì. Bisognerebbe avere un piano estraibile che esce da, da, da sotto e appoggiarlo sul piano estraibile, ma io già mi rubo. Sì, ma io ce l'ho i così già, tipo il così dei cassetti che lo togli fuori e non rientra, le guide di binari suoi, io due ce li ho, ma lui lo piglierei. Ah, sotto qua non ci sta, no, non mi serve mai quello lì. O devo spostare quell'apparato, che è più grosso, e lo metto qua in mezzo. E dove lo metto quello lì, sopra non ci sta, lo devo mettere sotto. Che casino. Io ce l'avevo il piano estraibile per mettere il computer qua nel mobile, l'ho tolto perché non ci stava il Galaxy e sopra l'altro, e il microfono soprattutto. La tavola non ci stava perché era troppo basso. Allora ho tolto quello lì e ho rialzato il ripiano. Ma io il ripiano, uno l'ho rialzato di 12-15 cm, non di più, no, forse 12 cm. Perché non so perché l'avevo alzato, per il microfono quello del 30G e ci sta bene. Però poi è nato l'altro, che l'ho messo a fianco ed è un casino. casino, non ci sta per niente, il microfono non ci sta. Allora, quindi, automaticamente se metto quello del piano di sotto ci sta, devo fare pulizia che c'è un bel casino, e ci mette il microfono attaccato a quello di piano lì. Quindi sarebbe il secondo di piano, perché il terzo è troppo stretto. Ma io ho capito. Vabbè. Che vuoi fare? Devi fare un altro mobile e fatelo su misura. E non lo provo già, se mai devo distruggere questo e rimodificarlo. E non lo puoi fare. Non ne vuoi la soffrire, se mi stanno sempre chiamando da una parte all'altra, se non riesco più a far nulla. Allora io ho fatto l'armadio a muro, adesso vedi quanto è bello, è tutta un'altra cosa. L'ho fatto per fare la dispensa. Già, ci ho messo tanto di quella cosa dentro che non mi ci ha tenuta. Ho detto, beh, domani libero quello lì, sposto la roba che c'è lì, la metto nella credenza, nella parte in massa, e lì faccio la dispensa. Non ho più fatto nulla. Non è grave. Sì, ma no, secondo me è normale una cosa del genere. Anche io sto rimandando, prima non rimandavo, quando farò cosa la faccio per voi. Adesso sto rimandando e lo faccio domani. Per dire, devo ritirare la roba e già può restare così asciuga meglio. Sì, ma è lo stesso casino già. Un casino, riesco più a far nulla. Agli altri gli sviluppo tante cose che mi chiedono e faccio. Io ci metto un calzolaccio, con i motivi fondati, capito? E io non mi faccio niente. Agli altri sì, a me no. Però devo imparare, o devo spegnere il telefonino, e poi si asciuga, lo devo avvisare. Oh, domani non ci sono, sono in zona d'ombra, perché? Perché spengo il telefono, devo fare in casa mia. Vabbè, basta farlo, basta. È solo che se ti chiamano per qualcosa d'urgente, sei sempre con questo... con questo pensiero, capito? Sì, perché se poi tu intervieni sulle cose urgenti che ti chiamano, che non ne puoi fare a meno, quando poi ritorni a casa non hai più voglia. Eh beh, certo che sì. Ti viene tutta l'ispirazione di farlo a quel momento, se ti interrompono sei fregato. Oggi non so neanche cosa fare a mangiare. Ma io penso che mi prenderò due pizzette al taglio e basta. Non ne ho voglia di cucinare stasera. Mi cucinerò la carne per taggerla e basta, perché a pranzo non ho mangiato nulla. Boh. Oh, yeah. Ecco le pizze, ma già sono buone, ma la bocca le ho prese in volà. Oh, già. Però mi ha deluso, con la pizzeria la croccante. Ma perché? È perché ho tornato a farcita. Ma ho detto, come la vuoi? Ho detto, salsiccia, sì, va bene. Ho detto... Ora è un due margherite, che salsiccia, tre fette di salsiccia buttate dentro, aio, dai, e la bella margherita ha fatto pagare di più, ma non dà. Ma tutte le cose le mettono a cosa, sempre della pizza col tonno, lo vedi con l'anternino il tonno, devi metterti la cosa, la lente a contatto per vedere. Allora devo dire, scusi, ma il tonno era vivo, dice perché? Perché è scappato via. E l'altro giorno a me me ne ha regalato una, a me me le regala sempre. Cioè, ne prendo quattro e me ne fa mangiare cinque, ragazzi. Ma già c'è un bel quattro, da poi me ne regala pure una. E tu te le mangi tutte e cinque? E l'altro giorno sì, me le ho mangiate tutte e cinque. Mamma mia, se l'hai già mangiato lui, aveva la mancia piena, tu cinque, come ti fai a mangiare cinque? Sì, ma tu c'è di cose che durante il giorno mangi di più, mangi basta, io non ne mangio, io mangio un'insalata, una fettina, un'insalata, un pesce, un'insalata sul piccino, io mangio poco, non è che mangio chissà quanto. Per una volta che ne mangio 4 o 5 non è che faccia nulla, una volta non è che lo faccio sempre. Ma io la pasta già, raro la faccio due volte alla settimana e a pranzo e la sera cena sempre, con le pizze ho preso a cena per esempio, capito? Che la pizza è anche pesante, pizza la glicemia. Io lo so, io ce l'ho sempre perfetta la glicemia adesso, dalla mattina a presto 130 massimo, poi arriva a 95, la sera tardi a 135, 120, sempre così ce l'ho adesso, la sto regolando. Io 135, 170, 130, sempre a cefala, e sabbia luci. La notte è bassa, mi faccio il giudina, la mattina che sono qui fuori, mi addormento, la mattina mi alzo, non faccio colazione. colazione, gli misuro glicemia, 170. Ma chissà cosa c'è a fare senza mangiare? Sì, dipende da noi sempre, quando sale dipende da noi, da quello che mangiamo. Se tu mangi, per dire, le uova, anche se te le fai fritte, non te ne fa salire di glicemia. Io mi mangio due uova con le cipolle, per dire, la sera, che non vorrei fare nulla, mi faccio due uova con le cipolle, a volte ci metto anche dei pezzi di formaggio di quello che fila sopra. Beh, non me la fa salire nulla, niente, 120, 123 quando la misuro. Io stasera mi faccio la caprese, con la mozzarella, pomodori, e ci metto il riga. Giovedì, ragazzo, mi ha riempito una mangiava. No, io me l'ho fatta ieri notte l'ho fatta. Vabbè, ogni tanto non fa nulla, ce la mangi, cosa di nafuti. E tanto una volta si vive, devi cercare di fare la comparazione. Se un giorno, per dire, mangi molto, il giorno dopo devi fare un po' di Ramadan e via, cosa devi fare? Solo che l'infermiera mi ha detto che quello che fa male è quello, questi sbalzi di cose, di glicemia, ti rovinano gli organi. Ma non lo so, la nostra glicemia io è molto controllata, perché io sempre con le misurazioni me ne faccio, capito, la macchinetta, anzi è possibile 5-6 volte al giorno me ne faccio già, per sicurezza, e quindi niente, sto attento a quello che mangio. Ma poi se lo abbassa un po' il sorbetto, lo so preso, pazienza, vuol dire che poi mi lascio la pomodoro, la mozzarella. Ma io la faccio solo prima di mangiare, ogni volta prima di mangiare, se ne faccio 5-6 volte al giorno, già non mi bastano così gli stick, che me li ho aumentati, ma non mi bastano lo stesso, è un secco, lì se non te ne dati, più di 100 non te ne dà. No, io... ho fatto il corso con Natalino, è arrivato la mia, è arrivato 400 stecchette. Non andavano bene quelle che avevi, no? Come me, io gliel'ho detto, però già ne avevo poche io, però non andavano bene lo stesso. Ma so, perché le danno tutte diverse queste macchinette? Chi lo sa, è quelle che ti fornisce l'ospedale. Adesso è uscita una nuova di macchinette, una bellina. Mi sa che me la vottura, a me mi ha fatto la proposta se volevo quella che ci attacca al braccio con l'app che ti misura la glicemia, quella è comoda. Lì. No, a me è nata una nuova già, allora, quando io metto il corso accendo il corso bianco, quando la glicemia è giusta, perfetta, verde, se è alta mi si accende la spia rossa. Ma la glicemia non te la segna? Sì, segna anche la glicemia, se è alta mi si accende, dove infilo l'asta per misurare, come dici, il sangue. L'asticina, come vuoi chiamarla, la striscia, automaticamente lì c'è una lampadina, si accende bianca quando sto iniziando, poi se passa la glicemia verde, se invece è alta o supera 170 mi si accende rossa. Invece la mia, se è alta, si scrive HI e lampeggia una volta solo, mi si è acceso quello lì, una volta che avevo mangiato la pizza Abruzzo, che ho bevuto anche la birra insieme, la birra la voglio alzare in picco. E comunque la mia si accende bellina, tutta nera, piccolina, ma un po' di striscette c'era, e non per la stessa striscia che ho io, perché ho guardato al computer, lui entra in trasloco con l'altro, non mi trovo più la macchinetta, c'è una foto, guarda il computer, sì, mi ha detto, ma è sicuro che questa qua è uguale, sì, c'è scritto qua, non si preoccupi. E con le strisce mie farò bene, io ne ho ancora più di 1000 strisce. 1000? E come fai a averne così tante? Sì che scadono, mi c'è la scadenza. Le strisce? No. E a Baida, vedi? Gli aghi, le strisce, tutta una scadenza. Cioè. La scadenza c'erano quelli per l'insulina, quegli aghi. Tutto. Io l'altro giorno ho fatto, anch'io qualcosa in più ce l'ho sempre. Ho fatto tutta la cernita di tutta la roba che avevo, ne ho buttato un po' perché erano scadute, non faceva aghi e cose, tutto scaduto, medicinali, tutto scaduto. Io quando vado a prendere in farmacia all'occorrente, mi dico, quelli che l'insulina non vale via, perché ne ho troppi a casa, fate una giumba. E quelli che sono scaduti li butto via, giustamente. Però quelli delle strisce ho cucinito già, io non ho visto scadenza nella scatola. No, le mie ce le hanno. Forse le mie sono universali, sono sempre funzionanti. Ce la devono avere nella scatola di, penso che c'era una scatola di cartone, no, dentro la scatoletta di cartone, controlla, vi dico. Scatola di cartone, ho detto, c'è quella in plastica che si chiude ermeticamente, è meglio dal tuo vicino, e infatti in plastica dura, e là io avevo messo gli ami quando vado a pescare, capito? E anche io, ci mette vogliamo. E vabbè, adesso ne ho una di scatola bella, quella del mangime dei pappagalli, quella lì me la dovrò utilizzare a mettere viti, queste cose qua, bulloni. Io mi devo attrezzare di nuovo, più in là vado a pescare, l'attrezzatura me la devo preparare piano piano. Prima devo sbrigare questo mese, insomma, tutte quelle cose, poi il tempo si è aggiustato per un calcio azzurro in giardino. Ma ci scendiamo a Porto Torres a farci il permesso? Perché ci vuole permesso? E allora, non lo sai, devi andare in capitaneria e fatelo fare. E andiamo in capitaneria a farci fare questo permesso. Perché se no, se ti trovano ti mettono la multa. Prima non era così, prima era solo una cirrita che facevano per vedere in quanti andavano a pescare. Adesso è proprio un obbligo. Ma ti danno un foglio o ti danno un tesserino come che puoi pescare? Ti danno un foglio. Ti danno un foglio dove c'è scritto il tipo di pesca che fai. Ci sono i vari tipi di pesca, con la canna, a bolentino, a strappo, a strascico, riso di basso, con le reti, e devi mettere la croce, te lo mettono loro, ti chiedono come la vuoi fare la pesca, e basta, tutto lì. E a mare la faccio io, a me nei fiumi, a Padoccia non mi piacciono di pesce, quindi, sì, io ho anche la macchietta che se fuggi di carta faccio la pesca, la classificata la faccio, c'è la macchinetta più non c'è problema. Sì, sì, è di carta. Lo scaricano col computer, a volte te la fanno in bianco e nero, a volte se non c'hanno inchiostro colorato te la fanno, però mi pare che chiuda alle 11 l'ufficio. E noi scendiamo alle 8, ci mangiamo il bombolone di crema e poi andiamo. Io. Intanto devo fare anche, lo devo rinnovare, io ce l'ho, ma lo devo rinnovare perché non vale più. E poi quando capita andiamo a pescare. E dove vuoi andare? Non si può più andare né a Lugullo né sul lungo, solo di spiaggia, dalle 8 di mattina, dalle 8 di sera, sino alle 8 di mattina, boh. E anche in spiaggia se si pesca già, E cavolo, io già ho pescato dalla spiaggia, ne ho pescato anche l'orata, me l'ho preso, però lì a Lido, al presidio militare l'ho presa. C'era la gente passeggiata, so fare di tutti a vedere la camionera era giù cavata. Era bella, 3 kg e passa pesata. 3 kg e 2 mi pare. E praticamente gli ho detto, mi allontanatevi, già una me l'hanno fatta perdere. Allontanatevi, fatemela togliere fuori, prima poi la vedete. Cazzo, sono piegati allontanati, perché stavo ti avvicinando alla battigia. Cazzo, così me l'avevo fuggito. Ma noi andavo un settimo pezzo, è proprio l'ultimo già. Che di fronte ci mettiamo con la macchinella, che giù c'è anche il mio ristorante enorme, c'è una piazza grandissima, io devo sempre lì. Sì, lo so, sono andato anche io, c'è una passerella per andare nella spiaggia, c'è questa passerella lunga, lo so, dal quinto in poi, tra il sesto e il settimo si prendono orate, ma c'è un punto dove lo chiamano l'autostrada, che praticamente è una parte del mare che è infossata e lì ci vanno tutte le orate. Se tu riesci a lanciare 150 metri la prendi di sicuro. C'era uno che faceva gare di lancio e ne ha preso 3 o 4 quando c'ero io. No, orate ne ho preso ma mezzo chilo, 750 grammi. Lì ho preso spesso le razze, la razza viene in varia. Mormoroni invece veramente. Anche io ne ho preso razze, morbole belle, di tutto, anche tracine, una volta ho preso questa tracina tunica e io siccome c'è il moschettone, gli ho staccato il moschettone, l'amo col moschettone e la tracina attaccata e l'ho buttata vicino alla canna. Cosa ha fatto questa tracina? Si è fatto il fosso nella sabbia, passa questa notte. Ciao, voce rubbe di Nantes, è un delinquente! Siamo stati criati. detto, signora, ma lei cos'è, la figlia di Fantuzzi? Cazzo, con tutta la spiaggia che c'è, è passata sotto la canna. Per carità, che guaccia. Comunque, volevo domandare, Gian, dimmi tu, venerdì mattina no, io sono impegnato, se vuoi andare domani mattina oppure in tal caso, no, domattina presto devo andare a fare una commissione, ma faccio in fretta perché ho due mesi, non faccio già libero, capito? Domani mattina, io domani devo andare a fare la visita, Tony. Ce l'ho tardi, però devo mangiare tutto quanto, non fa domani. Facciamo dopo domani. Dopo domani sì, dopo domani c'è un impegno ma di sera e quindi possiamo andare dopo domani. Dopo domani devo andare a mezzogiorno con mia figlia a riprendere la pagoda e tirare la torta, quindi se andiamo molto presto e saliamo subito va bene. Sì, sì, sì, andiamo presto e saliamo subito. Così, tanto aprire alle 9 l'ufficio, non è che apre prima, è 9, 9 e mezza, non lo so perché l'apre, però lo chiediamo e l'ho sempre fatto io, perché prima lo facevo al computer quando c'avevo la stampante e poi non avevo più la stampante, quindi lo facevo lì, quando andavo a portarle là con la capitaneria me lo facevano. Perché lo puoi fare anche da casa? Sì, sì, lo puoi fare anche da casa. Devi cercare politiche, politica, non mi lamento più come si chiamano, Natalino lo sa, Natalino se l'ha fatto, anche Franco California l'ha fatto Natalino. Ma col telefonino lo puoi fare stesso? No, col computer devi puoi stamparlo. Allora io col telefonino posso stampare lo stesso in casa mia, io ce la stampatevi. Ah, e allora farlo col telefonino, cercalo. Politiche, non me lo ricordo come si chiama. Vabbè dai, già lo cerco con calma, se lo trovo, se no andiamo direttamente dopo domani, ti faccio sapere stasera o domani, da caso ci sentiamo, non c'è problema. Sei benissimo, io non so abbia luci. Scendiamo giù e ci facciamo la passeggiata. Io Donicio ho già tutto pronto per la pesca, non faccio altro che venire e basta, c'ho tutto, ami, piombi, canne, tutto, tutto pronto. E passa Natalino, spero poi ti vanno bene, adesso ti chiamate Natali, sento qua c'è un'altra buccia stazionale, no. Natalino, ehi, dimmi, eia, tu che sei basso, scusa, non posso fare altro, dice che ha fatto due denunce, già fatto la denuncia, se ne ha fatto, ok, avanti già. E cosa ti hanno detto loro? Io li avrei chiamati sul posto stesso. E ma tanto qui ti mandano a fare la denuncia, anche se vengono loro, appurano quello che è successo e poi ti mandano a fare la denuncia. Ma è meglio che c'era sempre un qualcosa di loro prima, capito? Già abbiamo avvertito chi di dovere, adesso vediamo un po' cosa decidono di fare. Già l'hanno chiamato in casa ormai, tu ma io ci va precedente pure. Ma c'ha, non prende nella barca, saranno i vinetti. Fatti pagare anche i danni? Ne credo. Se ne cade l'antenna, cazzo, vedrai cosa ti può dire, tu va. Vabbè, che vuoi fare? Tu gli ha messo un palo, per tenere la portata al muro, così è storta pure, no? Perché io ti mando il coso come che la dritta, aspetta che te la mando giù. Un'altra. E così ce li hai tutti e due. Guarda un po', prima la dritta è legata, ma invece è slegata e ci ha messo un palo per tenerla spostata al muro. Un coso di legno ci ha messo. Sì, ma lui è andato a finire sul corridore per mettere quella fare lì. Cosa fa tu? Sei un bastardo. Aspetta che c'ho il telefono in cucina io. Mi prendi già un attimino. Ehi, ehi. E vabbè, adesso non ti incazzare, Natale, ti va di male. Adesso te lo vedo, l'hai fatto, l'hai denunciato. E l'antenna te la fa rimettere a posto com'era. Tu credi la buona posto, eh? A che mini parante e la mi pagati tanto. Appunto. Tu devi fare di tutto per fartela rimettere come era prima. Non lo lui a toccare, era una roba giuria. Sì, quello che conosce mia moglie ha detto che non si doveva permettere. Io gli ho detto, quando gli ho detto che aveva fatto due denunce, e noi ne facciamo tre a te. E praticamente. Ma tu non sei andato in caserma allora? Sono andato da nessuna parte io, andrò domani. Non pensavo fossi andato in caserma perché ti era sentato, ho detto magari andato in caserma a fare la denuncia. No, ma non mi va, se mi denunci domani a mangiare, bisogna andare. Vabbè, dipende dove vai. I carabinieri mi hanno detto così, poi c'è andata la polizia, ma l'hanno fatta. Quando hanno rubato la radio alla macchina di un amico mio, di Bernardo, siamo andati al cinema, all'Ariston, allora era ancora aperto, all'ultimo spettacolo. Quando siamo usciti gli hanno rubato lo stereo, è andato, l'ha denunciato questo carabinieri, anche a me mi hanno rubato la ruota di scorta e non ne ho fatto nemmeno denuncia. E cosa vuol dire? Tu puoi fare quello che vuoi, io lo denuncio, era un Clarion, cazzo, qui siamo a Bellina. Lo so, e lo dopo che si dica, quando c'è la gente bastarda. Ma mi ha ricordato la foto che c'è sempre quel massone lì che spinge l'antenna. Massone non ce n'era prima, capito? Prima era bella dritta l'antenna, la vedi che ti ho mandato la seconda foto? E c'era il coso, c'era i tiranti, c'erano. Me ne ha slegato i tiranti lui, e più ha messo quel massone lungo per tenerla sorta. No, Natali, io tiranti qua non le vedo. Ormai tu mi hai dato la foto che hai fatto la prima e la seconda è uguale, però è dopo un istante. Io tiranti qua non le vedo, Natali. No, non ci sono. Comunque è dritta l'antenna, la vedi è dritta? Sì, mentre l'altra la vedo più sorta. A chi la giubilata più a collo, no? Per vedere il dettaglio. Non vedi c'è il palo sorto. Ehi, a chi dirà Natalì, non mi l'indirizzo per fare... Così lo fai anche a me. A te. Natalì, per fare il permesso per pescare al mare. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali deve cercare. E lì ti chiedono le dati e tutto e ti fanno stampare il tesserino. Con il numero matricola e tutto. Ministero delle Politiche Agricole, come tira? Agricole e Forestali. Aspetta che devo cercare cosa mio. Attenzione, binario 10. 10. E di nuovo buonasera a tutti. Ciao Frank. E come mai è mollato poco fa? Facevo a trovare i miei. Ah, no, pensavo che te ne fossi tornato a Sassari. Ho capito, dai. Va bene, dai, stanno bene, sì. Sì, tranquilli, tranquilli. Meglio così, ma Tomare si è ripresa bene. Diciamo che cammina sempre un po' così, dai. Come una di 90 anni. Ma non li dimostra, lo sai. Non li dimostra, sembra più giovane. Vabbè. E mio padre ne ha 92, figurati. Se non fosse per la memoria, guai. Perché sei? Sì. C'è Tonino e Natalino. Quella roba controllata là. Gli hanno tagliato il tirante. Quindi ho visto bene, non era normale quell'antenna, non era roba di vento. Visto bene sì. Gli hanno tagliato il tirante e poi gli hanno messo un legno per tenerla piegata. Muro. Si punta al muro e la tiene piegata. Quindi togliendo il legno si riadrizza, vai. Così, già comunque per sentita. Ministero delle Politiche, poi com'era? Agricole e Forestali. Agricole e Forestali, sto scrivendo qui. Cerca quello su Google e ti manda nel sito dove c'è la situazione, no? Dice dove andare, pesca sportiva, poi. Ciao Tonino, che ne ascolti? Allora, mi stai spaccando le orecchie che con le cuffie. Siamo qui, siamo qui, zona Villa Corizia. Esce forte, cara. Adesso che siamo lì in aria, ci vediamo magari. Cappa, io bene ti arrivo là. La radio è buona, quindi credo che sia buona che il segnale. Cappa, poi io sono sempre qua comunque, da qui non mi muovo. Perché ce l'ho, diciamo, nell'altro cielo, dove lo smitter non lo vedo. Cappa, mi interessa la radio, guarda così se ti aumento la radio, 1, 2, 3, prova. No, basta, è che è troppo forte qua. No, lo lascio così, dai. Sì, se no rimbomba, mi vibra la colonnina qua. Ok, adesso Gianni, io proverai a entrare in questo Ministero delle Politiche Forestali, Agricole, no, Politiche Forestali, Pesca Sportiva, Ministero delle Politiche Forestali, sì. E poi c'è quella pesca sportiva, giustamente, la pesca sportiva, e poi ti indica se il mare o acque dolci, giusto? Il mare. Acque dolci è un altro. Mare. Sono le domande che devi rispondere. Gabba, poi davanti ai dati miei, giusto? Quando poi mi arriva il messaggio di questo permesso, troverò io lo scarico sul mio stampante. Ci vuole la mail, Ce l'ho, l'email, ce l'ho. No, quella di Natalino ci vuole anche. Perché cosa c'entra con Natalino? Perché ognuno è collegato alla sua mail, ogni permesso. Per me non mi ricordo così, Ma se io cerco questo che metto Natalino, sono un'altra persona e metto l'altra mia email. Io ho fatto una volta, un mio amico ha dovuto usare la mail, la sua, mi ha dato la sua e l'ha fatta a nome suo, capito? No, io ci provo io a vedere se ti esce. Prova se te ne fa fare due con la stessa mail, ma no, non lo so, non credo. Prova. Ehi, capo. Dai, un attimino di bianco che vi ascolto, vi provo a entrare lì. Dai, ripeti già. Ehi, ehi. Dove sei fra adesso? Come si chiama qua? Prima di Graziella, al semaforo, prima di Graziella. Non c'era una chiesetta antica, piccolina. Ho capito, dai. Sta arrivando bene qua. No, ma anch'io vi ascolto la bamboletta. Vedo dietro di voi un cielo un po' inquieto, Da qualche parte sta piovendo. Siamo alla sedia, devo portare il cane adesso. Lato verso Tempio, verso l'imbara. Ah, se lì va bene. Perché poi devo portare il cane, capito? Non vorrei che... Ha capito. Non so a che parte stiamo andando le nuvole, però no, non promettono niente di buono. Speriamo che se rimangano da quelle parti lì. Qua a casa si vede il sole ancora. Non lo so se si vede il sole. No, dietro di me verso il Porto Torre è azzurrissimo. E verso est è il problema. Ho capito. Ciao. Sei diretto verso casa adesso? Sì, adesso mi cerco il parcheggio e si rientra la cena. Anzi, qualcosa l'ho assaggiata anche con i vecchietti. Aiutando, l'ho mangiato più io di loro. Adesso il secondo round. Qualcosina leggera, vai. Cavagava, dai. Ma tu te che lo puoi fare, io devo mangiare come ti bisogno. Insomma, anche a me un po'. Io sono magro, però se mi esce un po' di pancia, il magro con la pancia è ancora più brutto. Ma io non è per ingrassare, no? Perché grazie a Dio sono alto, quindi non è che sia grosso da... Però non è quello lì, è per il diabete. Ma ancora riesco ad andare avanti, ancora a galleggiare con le analisi. Sono un po' borderline, però ancora posso andare avanti. E ti auguro di andare avanti tutta la vita così. Speriamo, dai. Natalino, ci sei? Sì. Natalino è incazzato. Avevo visto bene, Natalia, purtroppo. Ho cambiato il microfono. Allora, comunicazione dal 2 maggio 2022 in attività la nuova procedura di consentimento della pesca sportiva in mare. L'accesso all'applicazione è consentito esclusivamente attraverso la carta nazionale del servizio CSN Speed. Ma non è che devo avere anche lo Speed, non quindi gira. Elettronica CE, seguendo il link è possibile iscriversi o accedere all'area riservata al MASAP. Probabile, adesso ormai funziona tutto con lo Speed, o con la carta elettronica. E io Speed non lancio, se non mi cerco spiricolzare forse prima. Con lo Speed devi andare alle poste a richiederlo. Se no la carta sanitaria, con quella lì che entra. Con quale, Natalì? La carta sanitaria. è contro il codice fiscale. No, c'è quella di carta d'identità elettronica. Ah, ce l'ho anch'io la carta d'identità elettronica, sì. Ha sbagliato 30 euro pure. Dovete fare? Che con la carta nazionale dei servizi, quella sanitaria, no? Quella carta nazionale dei servizi non è il codice postale che abbiamo noi, il codice fiscale. Chissà, con chissà entra. Dalli i dati di chissà e ti fa entrare. Gamma. Valutazione di esigenza, manuale per l'accesso della procedura, autorizzazione e iscrizione nel sito del MATA 101.05 MB, manuale, completazione e esercizio della pesca sportiva, relativa al 987.74 KB. Dunque, manuale per l'accesso della procedura dell'autorizzazione e iscrizione nel sito, cioè, lì, clicchiamo qui. Ok. Adesso non è scattata bene, sicuramente sia Gianni che Tonino. Cosa non ho capito. Adesso ti arriverò bene sicuramente. Mi stai spaccando le cuffie. Anche tu adesso. E allontanati da qua, allontanati, dove c'è il chilometro? Alle luci gialle, sì. Ehi, si vede, anzi si sente. Lo immaginavo. Io sono molto perspicace, vedo oltre. Franco, io come ci arrivo al chilometro? Ah, basta, ha fatto due giri più 5. Ha messo altro microfono, dai. Troppo forte, cavolo. Comunque mi ha dato il dosso per compilarlo, ok. Abbassa, che mi vibra tutto. Sei pronto a compilare, così? Dai, sono basso. Più basso così, parlo piano, dai. Va bene, dai. Dipendente, io tra un po' sono arrivato e chiudo, vi avviso quando arrivo. Scappa. Sono metti i lo stampo. Anche la mia scaduta devo rifarla. Troppo, ecco, c'è fra. Così a zero, sì. Meno di così non posso scendere, va bene? Cappa, già va bene. Sono curioso, cosa si faceva con le zone di Villa Gorizia? Là ci abita anche mia zia. Io sono nato lì. Sei nato? Ah, dove? Allora tu i genitori abitano lì? Capito, Rogero. Ah, capito. Andrà bene. Sì, io non so se lo conosci. Mario Porra, è alto quasi 2 metri. Buse Carloni, dove? Poi c'era anche Matteo, che Matteo è morto però con la mia, c'è zia Lucia che è lì. Matteo chi? Matteo Porra. Sì, il padre di Angelo e Antonella, sono belli figli, dai. Sì, Giovanna, eccetera, eccetera, sì, Maddalena si è fuggita, infatti è fuori continente, l'ho vista da poco, è venuta qua in ferie. Poi più giù, invece, dove c'era il pollaio, quella zona lì, si è tradita Ignazio Porra, fratello di cosa? Di Matteo, la buon'anima. Poi c'è Mario Pola che ha fatto quasi 2 metri, che Ignazio è della buona giurata della polizia, non come cavolo si chiama, vabbè, comunque Interpol, giusto. E poi c'è Carloni e Tore che lui era una delle guardie di Campagnolo di Masucci, e comunque è il cognato di Mario Ignazio. Sì, beh, abitiamo a 100 metri uno dall'altro. Ho capito, dai. Tutto caporetto. Dai, io sono arrivato. Un abbraccio a tutti, Natalino, Gianni e a te, dai. Ti prendi Gianni? Un abbraccio a tutti, curati. Gianni, lo riprende, ciao da Roma, da Francio. Adesso senti alle prossime, stammi bene, salutoni, alle prossime. Avanti Natalino. Cappa, andando. Cappa, stacco qui dalla macchina e vado a mangiare, dai, vado a cenare. Salutoni, mi dispiace per la roba, dai. Stai tranquillo, però non agitati più di tanto, dai. Ok, dai, un abbraccio. Quando parlo con motore spento si abbassano le luci dello smitter. Ciao. Ok, ciao Franco, saluto lì, ci sentiamo. Gianni? Ciao. Salutatemi a Gianni quando rientro, vai. Ciao, sono andato in bagno oppure mangiare qualcosa. Bene. Allora. Ehi, Natali, ma io provo a compilarmi quel foglio. Vediamo un po'. Vado a vedere, vai tra. Ehi, dai, io faccio QRX, no, che cerco di fare quel foglio lì.